Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, rubrica settimanale con due uscite, come sapete, il sabato e la domenica. Per passare in rassegna i magazine settimanali mensili italiani e stranieri. Questa mattina parliamo di lavoro, ne parliamo perché da ieri è in vendita con il Sole 24 Ore il nostro mensile 24. 24, come sapete, è un mensile che ad ogni uscita privilegia un tema e ha dato proprio un elenco di tutti i temi che avrebbe svolto durante l'anno, e rispettando rigorosamente questa agenda, stavolta è il momento di parlare di lavoro. Gli altri temi, se avete già seguito magari questa stessa trasmissione oppure avete acquistato 24 con il Sole 24 Ore, sapete che sono stati di volta in volta il corpo, i soldi, le tecnologie, la sostenibilità, i giovani e via via poi altri ancora. Il lavoro è il penultimo tema dell'anno, vi posso già anticipare che l'ultimo tema, a cui dedicheremo quindi qualche passaggio in una delle successive puntate di Magazine 24, sarà la felicità. Ecco, i temi forse suoneranno un po' antitetici, perché in questo periodo, in queste settimane, in questi mesi, verrebbe da dire, il lavoro non ci sta dando molta felicità. Ci sono parecchi problemi, appunto, sia per la mancata creazione di posti di lavoro, sia per la scomparsa di posti di lavoro. Sono problemi che, come sappiamo, riguardano gran parte del mondo occidentale. Allora, leggiamo innanzitutto come ha scelto di parlare di lavoro 24. Lo spiega Fernanda Roggero, che è la responsabile della testata, e che in una breve prefazione dice: i ragazzi che escono dall'università oggi hanno una sola certezza: non avranno un posto fisso da portarsi appresso fino alla pensione. Il lato positivo della faccenda è che molti di loro, a differenza dei genitori, non la considerano una tragedia. Pensano al posto fisso come a una gabbia. Meglio così, perché il lavoro, come l'abbiamo conosciuto negli anni della crescita continua, sta lasciando il posto a impieghi molto più flessibili e precari, nei casi più fortunati tagliati su misura dei propri interessi. E il web c'entra molto, quindi meno sicurezze, più precarietà, forse molta più fantasia, ma anche qualche prospettiva in attesa. Dice appunto Fernanda Roggero: il web c'entra molto perché prosegue, si lavora da casa propria in una moltitudine operosa, come in questa nuova tendenza che si chiama crowdsourcing. Che significa? Significa distribuire in rete compiti difficili da automatizzare. Allora, passiamo proprio all'articolo che è stato affidato a Chiara Somaini e che si occupa di crowdsourcing. Spiega che tutto è nato qualche anno fa, 4 anni fa per la precisione. L'artista Aaron Koblin raccolse 10.000 pecorelle che erano state tratteggiate a mano, erano una diversa dall'altra, sono ancora lì, stanno su un sito che si chiama shipmarket.com, se qualcuno vuole andare a curiosare, ciascuna pronta ad animarsi, ridisegnandosi da capo sotto i nostri occhi non appena selezionata. Queste pecore sono state realizzate durante 40 giorni da singole persone che sono state ingaggiate a cottimo, tanto per utilizzare un termine che era più del lavoro d'altri tempi forse che non di quello attuale, ma che torna invece molto di moda. 2 centesimi di dollaro per ogni pecora disegnata. Come avevano fatto a trovarla? Avevano usato una piattaforma internet che si chiama Mechanical Turk, e avevano così distribuito, proprio usando internet, compiti semplici a un grande numero di individui. Koblin voleva con questa iniziativa visualizzare l'apporto umano che l'intelligenza artificiale di Amazon cominciava a organizzare. E allora questo è il crowdsourcing, cioè significa affidare a una moltitudine di persone una serie di compiti che non possono essere svolti da una macchina, non possono essere standardizzati al punto di lasciarli fare alle macchine, ma hanno bisogno dello sguardo e della scelta, della capacità di decisione dell'uomo. Prosegue Chiara Somaini su 24: oggi questo stesso compito, quindi questa vicenda delle 10.000 pecorelle, potrebbe essere risolto in una notte. non perché si sia evoluta la capacità produttiva, certamente sì, ma perché soprattutto ci sono dei sistemi di connessione delle persone molto molto più efficaci in soli 4 anni. E qui parte la storia di Crowdflower, cioè fior di folla, verrebbe da tradurre, è un termine quasi che suona poetico. È nata poco più di un anno fa, ha sede a San Francisco, ha avuto 6 milioni di dollari come venture capital, cioè come capitale di partenza, è stata selezionata come una delle startup migliori, quindi una delle aziende più promettenti tra quelle che si potevano scegliere proprio alle origini da una pubblicazione che si occupa proprio di selezionare le aziende promettenti. Ha collaboratori sparsi in tutto il mondo, ci sono anche 10.000 italiani che si prendono carico ciascuno di un piccolo compito, in genere è un compito semplice, è un compito ripetitivo, ma ripeto che non può essere svolto da una macchina. Facciamo un esempio: assegnare una etichetta a una foto, oppure verificare un indirizzario, o ancora operazioni più complicate, ad esempio accertarsi che un testo non sia offensivo, non sia protetto da copyright. Sono appunto compiti che è difficile automatizzare efficacemente e che però, se vengono esternalizzati, come si dice adesso, cioè affidati all'esterno, possono essere svolti in sicurezza. Pare che il lavoro distribuito via web, così ci avvisa appunto Chiara Somaini su 24, sia destinato a uno sviluppo sia capillare sia imponente, toccando i settori più disparati. Si stima che buona parte della ricerca delle scienze sociali di qui a una decina d'anni userà queste piattaforme, perché permettono di accedere a strumenti e dati inediti. E poi già oggi ci sono studenti, ad esempio studenti di linguistica, che usano sistematicamente questo crowdsourcing, cioè questa ricerca di folla, perché in questo modo possono appunto raccogliere molte informazioni provenienti da moltissime persone in un tempo naturalmente molto ridotto. Quindi questa è una delle frontiere del lavoro dell'oggi, già per una parte, ma molto probabilmente ancora di più in futuro, che viene raccontata da 24, in edicola da ieri, ripeto, con il Sole 24 Ore. Restiamo per un istante ancora su 24, perché ci sono anche, come dire, dei problemi legati a cercarsi il lavoro, e anche qui si cerca di avere qualche innovazione tecnologica efficace. Ad esempio, non è più così sorprendente l'invio di un video curriculum. Lo spiega Enrico Marro su 24, che appunto ha potuto visionare, ha potuto parlare con un po' di selezionatori, ha visto un po' di questi video curriculum, in pratica dei video che possono essere anche molto brevi, in cui uno si presenta le sue competenze, le sue capacità, e che poi vengono inviati alle aziende. Naturalmente l'utilizzo della digitalizzazione dei filmati ha consentito un invio ormai molto facile di questo tipo di supporti. Si chiede però a un certo punto, Marro, e la domanda mi sembra interessante: ma il video curriculum al selezionatore serve davvero? Risponde un direttore delle risorse umane di una multinazionale, dice: beh, è un passo avanti nelle modalità di selezione, però è molto difficile che questo possa sostituire il tradizionale colloquio di lavoro. Un altro direttore, una donna questa volta di un'altra grande azienda, dice: per certe professionalità è uno strumento interessante, certo come processo standard è un po' impensabile, perché ci sono alcuni tipi di profili che vengono penalizzati. Allora facciamo degli esempi: quando cercavano dei VJ, cioè dei disc jockey da mandare in televisione per un'emittente televisiva, beh, in quel caso certamente il video curriculum fu prezioso. Infatti racconta questa selezionatrice: in quel caso la sfida dei candidati era proprio quella di colpirci, e infatti uno si presentò vestito da Spider-Man, un altro addirittura mezzo immerso nell'acqua. I video così furono molto utili per selezionare, per fare una prima selezione tra i 400 candidati. Ci sono altri ambiti in cui naturalmente il video curriculum non aggiunge, non toglie granché alle competenze personali, però c'è anche qualche caso in cui il video curriculum ha il suo peso. Racconta ad esempio da una casa editrice il responsabile delle risorse umane: abbiamo scartato un candidato che aveva un ottimo curriculum vitae cartaceo, ma nel video si è rivelato davvero troppo timido, quindi questo utilizzo dell'immagine ha giocato contro questo candidato. Altri particolari, se li volete, su 24, in edicola, ripeto, con il Sole 24 Ore da ieri. E sempre in edicola con il Sole 24 Ore, un brevissimo annuncio prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico. C'è anche da qualche giorno la guida al nuovo redditometro. Sapete che stanno cambiando molte cose sul redditometro, c'è un utilizzo previsto sempre più massiccio di questo strumento. Allora, se volete capire di cosa si tratta, come si comporta, se ve ne occupate magari per il vostro lavoro, da giovedì proponiamo con il Sole 24 Ore questa guida, costa 7 euro insieme al nostro quotidiano. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Visto che abbiamo appena potuto ascoltare le informazioni e le novità sul traffico, vi voglio dire una cosa interessante che riguarda proprio l'auto. Attenzione all'auto se siete in coppia, perché pare che sia il luogo dove si litiga di più. L'ho scoperto leggendo Focus di novembre. Ci sono ovviamente molte cose su Focus, questa è una piccola notizia se volete, ma curiosa. L'automobile, leggo da Focus, è il luogo in cui nascono e si scatenano i peggiori litigi tra marito e moglie. Lo sostiene uno studio inglese che ha anche calcolato quanto tempo di convivenza in auto è necessario per innescare il primo battibecco, circa 22 minuti. Quindi se state più di 22 minuti in auto con vostra moglie o vostro marito, attenzione, perché da lì si entra nella zona, diciamo, più a rischio. Nella maggior parte dei casi il viaggio poi prosegue con i due partner muti e con il broncio. Le cause predominanti delle discussioni in auto sono ugualmente interessanti. Il tragitto da prendere è la causa scatenante del litigio nel 44% dei casi. Poi c'è la ricerca di un parcheggio nel 37% dei casi e poi la velocità, il 34%. Però possono creare attriti anche il volume della musica, la regolazione dell'aria condizionata. E talvolta finisce anche male, perché c'è chi ha scaricato il partner per strada e chi ha perfino deciso di chiudere la relazione. Le proposte, gli psicologi naturalmente si sono preoccupati di dare anche qualche consiglio di sopravvivenza, qualche manuale di sopravvivenza ai litigi in auto. Beh, non affrontate temi delicati, però è un po' difficile se il viaggio è molto lungo evitare tutti i temi delicati. Scegliere insieme la musica, rinunciare al navigatore, pare sia appunto non un ausilio ma un pericoloso agevolatore di liti, e poi rinunciare alle telefonate. Sono tutti comportamenti che bisogna limitare o cercare di evitare se non si vuole finire per litigare in automobile. Cambiamo completamente argomento, parliamo di una cosa legata proprio a questo weekend. Ormai da anni abbiamo importato con una certa tranquillità una festa che non era propria della nostra tradizione, sto parlando di Halloween. Halloween si celebra, quest'anno cade meravigliosamente proprio in un weekend. Come sapete è in realtà una festa, ha delle modalità di derivazione anglosassone, americana soprattutto. Tra le varie segnalazioni che sui giornali, spesso sulle riviste femminili, sono proprio dedicate a questo fine settimana particolare, ho scelto quella di Donna Moderna per segnalarvi ad esempio che il titolo di evento più spaventoso come festival terrificante si svolgerà vicino a Friburgo, precisamente a Rust, e ci saranno in questo che è il più grande parco divertimenti della Germania. Ci saranno sfondi cinematografici, make-up, zombie che si aggirano tra zucche e crisantemi, insomma, per creare un'atmosfera adeguata. Però se non volete andare fino in Germania, segnala sempre Lisa Di Matteo su Donna Moderna, c'è anche un Halloween Fest a Dolceacqua, che è in provincia di Imperia, e proprio tra il 30 e il 31 ottobre, cioè tra oggi e domani, un'armata di demoni sui trampoli invade il borgo medievale alla luce dei fuochi e al ritmo delle percussioni. Ci sono poi anche concerti e altri eventi collegati che poi potete leggere su Donna Moderna. C'è anche naturalmente un festival cinematografico, si svolge a Ravenna, in realtà è già in corso perché è cominciato già il 27 di ottobre e prosegue fino a domani. È una rassegna del cinema horror e del cinema terrificante, presenta appunto anche delle pellicole in anteprima. Se volete poi proprio fare una cosa esagerata, ci sono persino degli degli hotel, hotel terrificanti, di paura. Ce n'è uno che si chiama Falu Prison Hotel. Falun è una cittadina svedese famosa per il suo rosso, appunto il rosso Falun, ed è una sede di miniere. Lì c'è anche però un albergo dove si può dormire nell'antica prigione, perché in realtà l'albergo è stato proprio ricavato lì. Una cosa molto più nostrana, se vi piace, un'escursione notturna a Castel Sant'Angelo a Roma, perché lì appunto si dice che aleggi il fantasma decapitato di Beatrice Cenci, l'ideale se volete dedicare la notte al soprannaturale. Non è proprio soprannaturale, però un po' sì, la passione che ci sta agitando tutti per il Super Enalotto. Oramai, se non sbaglio i numeri, siamo arrivati con la estrazione prevista per stasera a 177 milioni e 800 mila euro, se si riesce ad azzeccare il 6. Panorama ha scelto di dedicare la sua copertina, nonché una lunga inchiesta, proprio al Super Enalotto, vista anche la fortuna che sta avendo. È interessante perché nell'inchiesta di Gianluca Ferraris ci sono alcune dicerie che vengono smontate e che probabilmente avete potuto ascoltare. Ad esempio si chiede: è vero che il jackpot sale sempre perché sopra una certa cifra lo Stato incamera più soldi? No, non è assolutamente vero. Una delle leggende che girano, riprendono quota ogni volta che il montepremi sale, ma in realtà le aliquote del prelievo fiscale sono sempre le stesse, cioè le percentuali sono identiche, qualunque sia l'importo giocato o quello del montepremi. Ma la seconda domanda di Ferrari è: ma lo Stato non è comunque interessato a spingere in alto il montepremi così incassa cifre sempre più alte? In teoria sì, ma in realtà non è proprio così, non è proprio direttamente connesso, perché ci sono delle statistiche che mostrano che quando l'attesa si prolunga troppo nei giocatori prevalgono la stanchezza e la sfiducia, e quindi di solito le giocate diventano stabili. È possibile condizionare il meccanismo di estrazione? Naturalmente no. Nonostante su questo girino leggende da tempo oramai immemore, però ripetiamo, non è proprio possibile, è un sistema assolutamente automatizzato con una macchina che fa praticamente quasi tutto da sola. È vero che l'estrazione avviene in segreto in una stanza blindata? No, non è assolutamente vero, spiega Panorama. L'estrazione è aperta al pubblico, tra l'altro se uno vuole assistere può farlo, si deve presentare alla sede dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a Roma, e quindi in questo modo può andare anche a vedere l'estrazione, ma se non è a Roma, se non si trova a Roma, può anche guardare su internet in streaming, come si dice, c'è il portale www.sisal.it e si può vedere appunto l'estrazione. Quante persone possono sapere il nome del vincitore? Questo è interessante e ci auguriamo riguardi almeno qualcuno di noi. Pochissime, perché il Ministero dell'Economia non lo sa e non lo saprà. La vincita viene infatti tassata alla fonte, viene erogata dalla Sisal. In teoria i soli che conoscono il nome del vincitore sono gli addetti dell'ufficio premi della società. In teoria, perché in realtà quello che normalmente succede è che, essendo il tagliando giusto un titolo al portatore, di solito il fortunato vincitore si fa rappresentare da un'altra persona, abitualmente appunto un notaio. E con questa indicazione abbiamo concluso il tempo per la giornata, per la puntata di questa mattina. Io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Magazine 24. Ringrazio Fabio Cantadori stamattina in regia, grazie anche ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani.